Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Bologna, 21 settembre 2009. Trovato impiccato un uomo senza identità. L'uomo era in frigo da 2 mesi e nessuno l'aveva mai cercato. In frigo, proprio così si erano espressi all'obitorio, telefonando al commissariato Bolognina manifestando un po' di insofferenza. Il funzionario aveva risposto che non sapeva cosa farci, visto che i ripetuti annunci sul giornale erano stati un buco nell'acqua. L'avevano trovato impiccato a una trave nel cantiere di un palazzo in ristrutturazione vicino alla ferrovia, attaccato alla cintura dei pantaloni, un oggetto pregiato di marca, come tutto il suo abbigliamento, una ricercatezza che era risultata molto strana, così come l'assenza di qualsiasi indizio per identificarlo. Di solito a farla finita in quel modo erano tizi ammaccati dalla vita, la cui noncuranza per se stessi si manifestava in primo luogo nel tipo di abiti. Questo invece aveva pantaloni Armani, camicia Ralph Lauren, un maglione navigare, scarpe di Gucci e biancheria intima di Covery. Anche nella valigia Vuitton custodiva un cambio di abiti di pregio. Ma c'era un altro particolare inquietante. Ai suoi piedi, posata contro una pila di mattoni, avevano trovato una Madonna dipinta da un pittore poco più che dilettante, a partire da modelli forse rinascimentali. Un olio su legno di dimensioni tali da essere trasportato dentro la valigia. L'uomo vi aveva acceso di fronte un cero e sembrava che gli avesse rivolto l'ultimo sguardo. Ormai sull'impiccato della ferrovia è calato il silenzio. Dall'obitorio chiamano ogni tanto, sempre più scoraggiati. Al commissariato quasi non indagano più. Si sono fatti l'idea che l'uomo, oltre a non avere nessuno, volesse proprio sparire. O forse voleva sparire perché non aveva nessuno. Chissà. Certo è che questa, come appare sodato ai poliziotti, è la sua volontà e in un certo modo è stata rispettata. Il funzionario capo del commissariato ha anche tirato una conclusione a suo modo filosofica. Sparire è il destino di tutti, non ci illuda un pezzo di marmo col nome e la data. Fra 50 anni o forse meno diventerà una scaglia da calpestare o un sasso in fondo al mare. Valerio Varesi, in libreria con Il commissario Soneri e La mano di Dio. Frassinelli, 278 pagine, 18 euro.